Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma eccoci insieme, sono le 11.06 del 24 di dicembre, ci siamo quasi. Allora, vedo molto sorridente Giorgio Mattei, forse spera di ricevere qualche regalo da Babbo Natale. Laura Vanossi sicuramente non riceverà il carbone, dato che il carbone ce l'ha tutto l'anno, la sua Nicoletta Carbone. E lei è come sempre in redazione, attentissima ai titoli del nostro sommario. Sogni ad occhi aperti o chiusi? Parliamone insieme. Badandum, un'agenda per famiglie e badanti. Natale, inversi. Nulla è più facile che illudersi, perché ciò che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero. Demostene. Insomma, ci siamo, eh? Natale è qua, davvero alle porte. Qualcuno di voi magari sta già trafficando in cucina per preparare il cenone, qualcuno non ha ancora magari terminato di pensare agli ultimi regali, altri stanno già riempendo le valigie per una vacanza desiderata da tempo. Tutti comunque aspettiamo. E allora, in un giorno così speciale di vigilia, di attesa, siamo qui a parlare di quella forma particolare di desiderio. Vi ricordate Cenerentola? Che diceva appunto che i sogni sono desideri. Noi parleremo oggi di sogni ad occhi aperti, ad occhi chiusi, di quelli che finiscono nel cassetto, che a volte è proprio chiuso, a volte semiaperto, escono un attimo a fare capolino e poi si rinfilano dentro. Tra l'altro anche parleremo dei sogni che voi raccontate nel nostro forum, che è attivo a vostra disposizione ed è proprio appunto dedicato ai nostri sogni. Ne parliamo oggi con il dottor Ballerini, medico, scrittore, psicanalista freudiano, che tra l'altro è curatore del forum, moderatore si dice del nostro forum. Buongiorno, si dice moderatore del forum, dove i nostri ascoltatori partecipano numerosi nel confidarci quello che sognano. 800 24 00 24, siamo in diretta, questo è il nostro numero verde, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Tra l'altro, dottor Ballerini, a proposito di Cenerentola, i sogni sono desideri, insomma, in qualche modo ci ha preso, perché Freud all'inizio del secolo ha dato proprio una spiegazione scientifica a questa canzone di Cenerentola, confermando come i sogni in realtà, i sogni notturni stiamo parlando, siano proprio espressione dei nostri desideri. È così? Sì, Freud è stato forse il primo a prendere davvero sul serio i sogni e a trasportarli in un ambito scientifico. Prima magari erano delle preveggenze, oppure messaggi divini o messaggi degli dèi, piuttosto che messaggi dal mondo dell'aldilà. È stato il primo a prendere sul serio dal punto di vista scientifico i sogni, a studiare in primis i propri e poi quelli dei pazienti che si rivolgevano a lui, e ha proprio scoperto che sì, i sogni sono la realizzazione notturna dei nostri desideri, anzi l'espressione notturna dei nostri desideri. Che sogni faceva Freud? Dice che è partito sì, proprio, sì, dai... Sì, Freud ci ha raccontato qualche suo sogno, è stato molto attento a darci dei dati personali, ma non troppo, diciamo che non voleva svelarsi troppo. Stato prudente nel raccontare i propri sogni, sì. D'altra parte, a raccontare i propri sogni è qualche cosa di intimo, non crede? Credo proprio di sì. A me piace considerare un supremo atto d'amore il raccontare i propri sogni. Io tendo a pensare che quando due si svegliano al mattino e magari si salutano con un bacio, o non hanno neanche fatto questo, se uno dice l'altro: "Oh, ma lo sai cosa ho sognato?" È segno che quella coppia sta andando bene, perché è proprio una confidenza, qualcosa di estremamente intimo che noi raccontiamo a un altro. 800 24 00 24, se volete raccontarci i vostri sogni ad occhi chiusi e ad occhi aperti. Dottor Ballerini, nel corso della nostra trasmissione parleremo anche quindi di desideri, di illusioni. Questa è un po' la giornata della vigilia, una giornata di attesa. Ciascuno di noi ha un desiderio nel cuore, un desiderio che magari si realizzerà oppure sa che non potrà mai realizzarsi, eppure lo tiene al caldo, nel cassetto, nel cuore. Ognuno cerca il posto ideale. Parleremo anche di questo. Vogliamo dare qualche stimolo ai nostri ascoltatori? Ma io direi che è importante vedere un attimino che proprio ci raccontino i sogni che fanno, perché potrebbero farci dei sogni che tendono a ripetersi, quelli che noi chiamiamo i sogni ricorrenti. Ci sono dei sogni che proprio non avrebbero mai voluto fare, che magari li ha spaventati, li ha turbati, o un sogno che gli piacerebbe aver fatto, che poi invece non è mai accaduto, che magari sono i sogni anche che fanno al mattino, o si fanno occhi aperti, o in uno stato oniroide quando non si è ancora addormentati, o anche magari un sogno che qualcuno ci ha raccontato e che ci ha condizionato, ci ha turbato, insomma, che non siamo riusciti come a cavarci fuori nulla. C'è anche chi i sogni non se li ricorda, nonostante tutti sogniamo mentre stiamo facendo dormendo. Per tutte coloro che i sogni proprio al mattino insomma sembrano non aver lasciato segno, insomma sono andati molto leggeri, se ne sono in un certo senso sono volatilizzati, però io invito sempre a chiamare il nostro numero verde, perché avranno la possibilità invece di raccontarci i sogni che fanno ad occhi aperti. 824 0024, i messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. Proprio ieri mattina ho trovato tra la posta una busta con una grafia chiara. Sembrava un po' la grafia di una bambina. L'ho aperta e dentro ho trovato una foto di una ragazza che abbraccia una vecchina. Sono tutte e due molto sorridenti vicino ad un albero di Natale. Si chiama Eva, me lo scrive in questa letterina, è ucraina, 33 anni, e la signora coi capelli bianchi e il bastoncino accanto a lei è bianca. Una vecchina di 92 anni che Eva accudisce a tempo pieno. Insomma, questa letterina di auguri, scritta in un italiano un po' stiracchiato, devo dire che mi ha commosso. E Eva mi ha scritto che questo è il primo Natale che passa lontano dai suoi bambini, ma che nella nuova famiglia si trova molto bene. C'è stato subito feeling, anche se lei tra i suoi desideri spera di imparare presto a essere sempre più utile a questa signora, che le ha subito dimostrato grande affetto. Allora, quindi una relazione molto particolare quella che si instaura tra queste donne che arrivano da paesi lontani e che entrano nelle nostre case per accudire e accompagnare bambini e i nostri anziani. È una relazione basata sicuramente sul rispetto, sul feeling. Le due persone che vanno a vivere insieme si devono piacere, ma ci vuole anche qualcosa di più. E allora io ho chiamato al telefono un'amica e una collega, Francesca Padula. Ciao Francesca. Buongiorno a tutti. Francesca Padula è giornalista del Sole 24 Ore, è curatrice per la parte normativa dell'Agenda Badandum 2009, un libro agenda per famiglie badanti di cui sicuramente avete già sentito parlare, è un'agenda che è in vendita in edicola. Ma Francesca, io non lo so se è perché è Natale, ma questa foto di queste due donne così lontane per età, per tradizione, che la vita fa trovare insieme in un momento, no, speciale come quello di Natale, passeranno il Natale insieme, un po' mi ha commosso e ho pensato di così pensare a tutte queste famiglie, a queste donne, anche in occasione del Natale, perché molte famiglie magari sono lontano dai loro anziani e possono festeggiare con tranquillità anche il Natale, proprio perché sanno che i loro anziani sono in mani sicure. Hai fatto benissimo a pensare a loro, una dedica sicuramente, degli auguri particolari a queste donne che danno un contributo fondamentale alle famiglie italiane. Basti pensare che sono più di 2 milioni le persone che si occupano di tutte le famiglie italiane e 700.000 sono le badanti che assistono a tempo pieno gli anziani, quindi che curano quotidianamente le persone anziane. Sai, 700.000 è un numero molto grande, sì. Addirittura supera tutti i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè ci sono più badanti che dipendenti di tutta la sanità italiana pubblica. Francesca, Eva ci scrive: spero di diventare sempre più brava per accudire questa nonnina a cui voglio già bene, la famosa questione di feeling. E devo dire che io, sfogliando questa agenda, ho trovato una serie di consigli, li chiamate proprio il consiglio della settimana, che sono di buon senso ma in qualche modo forniscono delle indicazioni importanti, educano le badanti, ad esempio anche molto semplici controllare frequentemente che le viti della carrozzina siano ben strette, vado così, e non lo collocare la bombola di ossigeno in cucina, incoraggiare il paziente a mangiare da solo. È anche una guida, è fatta in 8 lingue, quindi è facilmente comprensibile da tante persone, per aiutare la badante a diventare sempre più efficiente, sempre più pratica, sempre più adatta a misura delle richieste dell'anziano. Sì, è una guida, come tu vedi, molto illustrata anche, proprio perché sicuramente la traduzione in 8 lingue aiuta, contribuisce a facilitare il colloquio tra le persone anziane e le badanti, che devo dire sono molto brave e che trovano spesso anche presso le parrocchie, nei comuni, anche dei corsi proprio di lingua, di formazione. E la guida contribuisce sia con le illustrazioni, sia con questi consigli di cui tu hai ricordato, appunto, quelli principali, che sono tradotti nelle lingue più usate dalle sì, ma ce ne sono davvero molte di buon senso, ma sono importanti perché ci mettono un po' anche ripetita iuvant, Francesca, in un certo senso, no? Aiutano proprio la vita quotidiana, e questo rapporto che da un lato può essere difficile, ma d'altra parte può diventare proprio un arricchimento reciproco e indispensabile. Senti, Francesca, però tu dici non è solo questione di feeling, ma anche di contratto, cioè orari, riposi, ferie e stipendi. In questa agenda abbiamo la possibilità, anche per le famiglie, hanno la possibilità di trovare delle informazioni molto utili sui contratti di lavoro, le tredicesime, le ferie, insomma. Assolutamente sì, io dico non è questione soltanto di feeling, perché poi l'importante è mettere in chiaro il maggior numero di accordi, diciamo, quelli che possono diventare eventualmente in un secondo momento dei motivi di litigio, di contenzioso, se invece vengono chiariti subito, addirittura messi per iscritto, è la cosa migliore. Ecco. Certo. Quindi sicuramente i datori, ecco, le famiglie che con questa brutta espressione di datori di lavoro, di fatto lo sono, perché è come se fossero una piccola impresa che deve gestire un rapporto di lavoro, che è il rapporto di lavoro domestico, esiste un contratto nazionale da rispettare, e quindi per questo noi diciamo non è soltanto questione di feeling, è importante la fiducia, è importante la scelta, è importante il primo colloquio, dopodiché stabilire un piccolo codice di diritti e doveri è altrettanto fondamentale, e l'agenda può aiutare a fare appunto questo in famiglia. Grazie Francesca per essere stato con noi. Ricordiamo che proprio per un anziano, nella maggior parte degli anziani, il piacere di rimanere a casa è uno dei desideri più grandi, proprio oggi in cui parliamo di sogni, di desideri, e molto spesso questo è reso possibile proprio dalla presenza delle badanti. Francesca, buon Natale a te! Auguri, grazie! Auguri, grazie. Buona giornata! Arrivederci! Pronto soccorso! Sognatore è un uomo con i piedi fortemente appoggiati sulle nuvole. Ennio Flaiano. Siamo tornati insieme a parlare del tema del giorno, parliamo di sogni ad occhi aperti, ad occhi chiusi, di illusioni, di desideri. Raccontateci i vostri all'800 24 00 24. E intanto io saluto il professor Caltagirone, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, adesso buon Natale. Buon Natale anche lei. Prendo un attimo fiato per leggere la sua qualifica, ma professore di neurologia presso l'Università di Roma Tor Vergata e direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia a Roma. Professore, parliamo di sogni che facciamo ad occhi chiusi mentre dormiamo. Il nostro cervello, mentre sogniamo, che cosa fa? Ma guardi, questa è una delle cose che ha stupito molto i ricercatori quando si sono cominciati a occupare di questo argomento. Il cervello è in grandissima attività. Tutti pensavano che il sogno fosse qualcosa che mantenesse un riposo sostanzialmente del cervello. Invece, come lei sa, durante il sogno, e non solo, ci sono questi cosiddetti rapid eye movements, cioè le fasi REM, che sono caratterizzate da una grande attività delle onde bioelettriche cerebrali. E quindi è un'attività molto importante per il sistema nervoso. Si svolgono un sacco di funzioni durante quel periodo. Per esempio memorizzazione, apprendimento, riorganizzazione dei ricordi, tante cose che avvengono proprio durante il sogno. Professore, ci sono persone che i sogni se li ricordano e altre al mattino non si ricordano nulla. Insomma, tabula rasa. Come mai? Ma credo che questo dipenda da tanti fattori, soprattutto dal fatto che non si è molto abituati a prestare attenzione ai sogni, ma dipende anche da quindi da fattori prevalentemente di personalità e di carattere, e anche da come ci si costruisce, no? Ci sono persone molto rigide che non ammettono di avere, come dire, un mondo interiore con fantasie, con degli spunti che quando quindi, uno sta sveglio. Quindi bisogna anche saper essere un po' sognatore. Lo chiedo al nostro dottor Ballerini, che è qua in studio con me, e quindi vorrei sentire il parere dello psicanalista. Ma io sono perfettamente in linea con il professor Caltagirone. Buongiorno professore. Buongiorno. Perché mi ha colpito quello che ha detto. Il primo punto, il lavoro del sogno. È bello davvero pensare che il nostro cervello, mentre noi dormiamo, continua a lavorare, perché ci può dare lo spunto di pensare al fatto che il lavoro non necessariamente stanca, non necessariamente lavorare stanca, anzi il sogno è proprio l'esempio di un lavoro che può essere riposante, per cui davvero colgo questo spunto che per me è fonte di grande interesse. E anche l'altra questione del ricordare i sogni, sono proprio con il professor Caltagirone, perché è un'esperienza ad esempio di chi inizia un percorso di psicanalisi, che si sa, no? Nel senso, magari c'è stato anche l'invito a portare al mattino i sogni o a portare in seduta i sogni che si sono fatti la notte precedente. Di fatto è l'esperienza di chi inizia un percorso di psicanalisi che inizia a ricordare di più i sogni, per cui c'è proprio come quella forma di attitudine o di volontà o di desiderio o di invito che citava il professor Caltagirone, per cui a un certo punto anche un soggetto che tende a non ricordare i sogni, di fatto poi, se inizia a farlo, poi lo fa con maggior regolarità. Professore, volevo chiederle una cosa, dato che anche con lei tante volte abbiamo parlato del cervello degli uomini e delle donne, ci sono delle differenze. Ma come no? Certo che sì. Guardi, lo sappiamo bene. Adesso però non vorrei aprire. Anche nel cervello. Senta, professore, ma dato che siamo diversi, uomini e donne sognano in modo diverso? Guardi, ci sono degli studi più recenti che sembrano sottolineare il fatto che le donne hanno un'attenzione maggiore per le emozioni, per la vivezza con cui sperimentano degli aspetti emozionali durante il sogno e l'intensità. Purtroppo anche nel sogno gli uomini si rivelano un po' meno dotati, no? Del senso femminile su questo versante. Ma credo che questo non sia una differenza strutturale, credo che questo sia una differenza dovuta appunto alle influenze culturali e di formazione che ci sono fra uomini e donne. Quello che è importante è che invece certamente ha a che fare con delle differenze strutturali, è che gli uomini fanno più sogni di azione rispetto alle donne, che fanno più sogni in cui sono sottolineate delle situazioni relazionali, appunto emozionali, e quindi le differenze ci sono sostanzialmente, ma come quantità di sogno, come intensità dell'esperienza onirica, non ci sono grandi differenze. Forse se si riuscisse ad avere anche dei sogni di azione in cui le emozioni sono presenti, no? Sarebbe il massimo. Magari è un desiderio che mettiamo sotto l'albero, nella letterina. Appunto. Professore, aiuta molto sognare. Aiuta vero? Aiuta moltissimo, e aiuta a sognare perché, vede, una delle cose che spesso non si prende in giusta considerazione è che chi sogna di notte riesce a costruire sui propri sogni, poi ha più fantasia, più creatività, più attitudini da sviluppare. Si ricorda qualche tempo fa avevamo discusso di questa frase di Allan Poe, chi sogna di giorno crea delle situazioni persino maggiori di chi sogna solo di notte. Magnifico. Allora, i sogni come una sorta di terapia per il nostro benessere. Proviamo a... Benissimo. Professore, non le chiedo se stanotte ha sognato, mi auguro di sì, e che lei abbia fatto un bel sogno e che faccia un bel sogno anche stanotte, tra il 24 e il 25. È un ottimo augurio. Grazie, buon sogno, professore. Grazie. E buon Natale. Buon Natale a lei. Andiamo a Brescia, ci aspetta Tiberio. Buongiorno Tiberio. Buonasera. Io volevo chiedere una situazione che mi capita non di rado, però è praticamente io sogno, sì. Ho un bel rapporto col sogno, nel senso che poi me li ricordo e mi rimangono delle belle situazioni, sì. Però alcune volte mi capita situazioni che io non ricordo nel sogno, ma poi quando succedono, non so, un evento, un qualche cosa, mi sembra di averlo già vissuto. Il famoso déjà vu, lo chiedo al dottor Ballerini. Poi Tiberio, ma stanotte Tiberio, lei ha sognato, stamattina si ricordava il suo sogno? Io sì, ho sognato questa notte. Cosa ha sognato? Ho sognato particolare, nel senso con mio figlio, il più piccolo, che nel pomeriggio, siccome noi abbiamo nella vigilia l'abitudine di fare il jingle bell degli animali, questo è iniziato con il mio primo figlio, questo è il terzo, e anche lui è tutto pronto e entusiasta per questo jingle bell, e questa notte siamo andati nel sogno e abbiamo visto animali che normalmente non riusciamo a fare, perché nella zona dove abito non abbiamo questo genere di animali. Certo. E nel sogno invece si è realizzato questo desiderio. Ho visto questo jingle bell che poi nel pomeriggio oggi noi faremo con i miei figli. Beh, mi sembra tra l'altro, dottor Ballerini, una bella cosa da fare. Comunque, ritorniamo al nostro déjà vu di Tiberio, che ringrazio per avermi fatto diventare tutti noi un po' intimi, perché dicevamo appunto che raccontare il sogno è qualcosa di intimo. Dottor Ballerini, che cosa si può dire a Tiberio? Ma possiamo dire che Tiberio è un grande teorico, perché ha elaborato da solo quella che è una delle possibili teorie interpretative dei déjà vu. Perché il déjà vu, in fin dei conti, è quando noi abbiamo quella strana visto, sensazione del è già successo, l'ho già vissuto, l'ho già visto, è già accaduto. Ora, di là dalle ipotesi un po' di premonizione, preveggenza, che tengono un pochettino poco, di fatto è un fenomeno che è stato studiato. Alcuni lo considerano una sorta di cortocircuito della memoria, perché noi abbiamo una memoria breve, a breve termine, che si accorge del presente, e quella a lungo termine che si accorge del passato. Per cui quando c'è un cortocircuito sembra presente qualcosa che invece è passato, o viceversa. Ma Tiberio ci ha detto invece di una bella teoria, che è un'altra teoria che lega sogno e déjà vu, in cui nel déjà vu accade che noi dall'esperienza presente recuperiamo degli elementi che abbiamo sognato, per cui ci sembra di averli già vissuti in realtà li abbiamo vissuti nel sogno. Mi piace, è magico. Allora, tra l'altro volevo dare la parola a Roberto, che intanto saluto da Firenze. Roberto, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, auguri. Grazie Roberto. Però Elena mi ha scritto una cosa che mi piace molto, te voglio leggerla. Maupassant in una novella narra di un uomo che si innamora di un'insignificante vicina di casa dopo averla inaspettatamente sognata. Mi piace. Roberto, buongiorno. Lei ha mai sognato una vicina? No, non sono arrivata a tanto. I sogni sono molto più banali da questo punto di vista, neanche a colori tra l'altro, perché so che molte persone sognano a colori. Io vi ho chiamato perché, a parte che stamattina avete fatto una trasmissione una dietro l'altra parlando sempre dei sogni, perché anche il giornalista che l'ha preceduto parlava... No, ha parlato di volo, e poi il volo... Il volo nel sogno, ed era molto interessante. Noi ho chiamato perché all'inizio della trasmissione con Ballerini avete parlato appunto di Alice, che realizzava nel sogno i desideri, confermato anche dalla teoria di Freud, mi sembra di capire. E quando quindi, la mia domanda è questa, quando quindi una persona si racconta invece la mattina di un sogno negativo che riguarda magari la coppia o delle persone conosciute o familiari, ma negativo anche in maniera drammatica, che tipo di desiderio si realizza in quel caso? Grazie Roberto, una bella domanda. Dottor Ballerini, iniziamo a dare una prima risposta e poi una seconda dopo i mercati, ma intanto... Allora, la prima risposta telegrafica che posso dare a Roberto è che il sogno non è quello che sembra, per cui non dobbiamo preoccuparci. Innanzitutto non esistono sogni brutti, ma il sogno così come noi lo ricordiamo non è esattamente il sogno vero, perché Freud appunto ha scoperto che il sogno è fatto da due elementi: dal contenuto manifesto, che è quello che ricordiamo, magari questo sogno negativo sulla coppia, qualcosa che è successo di brutto, o un litigio, o un dissapore, ma il contenuto latente, che è il vero significato del sogno, ha poco a che fare con quello che noi ricordiamo e raccontiamo. Per cui innanzitutto torno a ribadirlo perché è così. Raccontarsi il sogno è un grande atto di intimità e di amicizia, ad esempio se lo fanno due amici. Non dobbiamo avere paura del contenuto, perché se anche il contenuto ci sembra brutto, in realtà vuole dire qualcos'altro. Ma adesso qua si apre la parte, ad esempio, dell'interpretazione del sogno, che possiamo vedere dopo. Certo, quindi tra poco, dopo la pausa, il 24 i mercati sono chiusi, noi parleremo di interpretazione dei sogni, per dare anche delle indicazioni a Roberto, perché tutte le persone che fanno dei sogni tristi, dolorosi, al mattino raccontarli, che magari coinvolgono una persona che noi amiamo, che ci è vicina, abbiamo questa sorta di pudore e questa sorta magari anche di paura che questi sogni si realizzino, ma dietro il sogno c'è sempre un significato da scoprire. Gio Morelli vendeva sogni e all'inizio degli anni 50 la gente sapeva vivere solo di sogni. Gio Morelli cercava volti nuovi per il cinema. E la Sicilia degli anni 50 era un oceano di facce in attesa di un futuro. Era una nuvola di bocche in cerca di ricchezza. Una montagna di cuori assetati d'amore. Una folla di morti che gridano giustizia, un fiume di mani che chiedono lavoro, un mondo di occhi che cercano sorrisi. Gio Morelli prometteva tutto questo. Futuro, ricchezza, amore, giustizia, lavoro, sorrisi. Era l'uomo delle stelle di un spettacolare tornatore che ci dà un po' lo spunto per parlare di sogni che facciamo di notte, ma anche di sogni che teniamo nel cuore e nel cassetto. Dottor Ballerini. Sì, sono in realtà questo inserto che abbiamo ascoltato, che ci ha riportato alla mente questo bellissimo film, parla di sogni in senso un po' più generale, parla di quei sogni che sono quelli che facciamo di notte, che abbiamo detto poi realizzano dei desideri che magari non confessiamo neanche a noi stessi, ma poi ci sono i desideri, no? Lì parlava di giustizia, di libertà, e poi ci sono di lavoro, anche di lavoro, di amore. In questo momento è estremamente interessante, e poi ci sono quei sogni che diventano quasi illusioni, no? Che noi continuiamo a fare nonostante la realtà ci continui a dire guarda che non è per te, non si realizzerà mai. E poi ci sono i cosiddetti sogni nel cassetto, che sono, io trovo interessante, anzi, se riuscissimo a parlare un po' dei nostri sogni nel cassetto, perché a volte sono delle illusioni, ma altre volte invece sono delle possibilità che noi non ci autorizziamo a realizzare, e quindi, diciamo così, ci inibiamo in qualche modo e non permettiamo l'espressione di questi sogni nel cassetto, li teniamo ben chiusi questi cassetti, quando invece a volte magari aprirne uno spiraglietto potrebbe fare la differenza. Sono pronti a saltare fuori. Sì. Parliamo anche in coro. Magnifico. Io volevo leggerle un messaggio di Roberto che ci porta di nuovo nel sogno notturno. Stanotte ho sognato di essere nella mia auto, seduto nel posto posteriore, e mi sentivo in una posizione di costrizione. È un bel sogno questo. Allora, per non diventare un mago o un santone, è sempre rischioso interpretare il sogno di un altro, perché il sogno è interpretabile solo da chi lo fa. Tuttavia, in questo sogno che il nostro amico ci ha fatto il regalo di raccontarci proprio oggi, c'è un elemento che balza immediatamente all'occhio per chi lo ascolta, per chi lo legge dal messaggio, ed è il fatto che lui nel sogno occupa un posto in macchina, che è il posto posteriore. Tipicamente quel posto è occupato da colui che non guida. Quindi in una macchina abbiamo il posto di chi guida e il posto di chi non guida, di chi si fa guidare, di chi si fa trasportare. E poi dietro di solito si soffre, per chi soffre la macchina. In qualche modo, però, la difficoltà che può essere denunciata nell'occupare questo posto potrebbe dirci di una certa tendenza che ha questo uomo della difficoltà di lasciarsi condurre, di lasciarsi guidare, ma forse una certa tendenza nel tenere sempre le redini in mano. ed a volte è faticoso. Per cui diciamo così che se dovesse venire un consiglio che viene fuori da questo sogno è qualche volta prova a lasciarti un po' andare, lascia andare avanti gli altri, lasciati guidare, segui. Andiamo a Verona, ci aspetta Rinaldo. Buongiorno Rinaldo. Buongiorno dottore, buongiorno a tutti e buon Natale prima che... Certo, meglio portarci avanti. Auguri certo, di certo. Buon Natale anche a lei, Rinaldo. Grazie. Allora, si tratta di questo. Oltre alla fase dei sogni, esiste un'altra fase, penso che, non so se tutti l'hanno sperimentata, che è quella dell'addormentamento. Mm. Per me da 10 anni è diventata una cosa impossibile, la sera e anche di giorno, la pennichella mi sba, più niente, perché non riesco a sopportare quella fase in quanto mi vengo colpito da dolori inimmaginabili. Mm. La mia fantasia non arriva a potermi determinare prima, in più parti del corpo, non so, mi sento per esempio pressione al torace come se qualcuno mi spaccasse il cuore o roba del genere. Cosa vuol dire questo? Grazie Rinaldo, sentiamo il nostro dottor Ballerini. Allora Rinaldo, la fase dell'addormentamento che per fortuna per la maggior parte dei soggetti invece è una fase estremamente piacevole, ad esempio per me, io la sensazione del mi sto per addormentare, sono sotto le coperte, è davvero una sensazione piacevole, anche perché è l'unica cosciente che abbiamo del sogno, perché del sonno, perché mentre dormiamo poi non ce ne accorgiamo di fatto, tranne che per il sogno. Però in alcuni casi esistono degli stati che si chiamano stati oniroidi, che non sono propriamente sogni, ma sono degli stati di minor coscienza in cui ci accade qualcosa. Ora, a parte il fatto che io consiglio di andare a vedere bene l'organico, quindi il corpo, perché è bene accertarci che questo tipo di sensazioni non sia legato a dei disturbi corporei organici che in qualche modo noi stiamo trascurando, per cui un bel check-up e vedere se va tutto bene è sempre ben consigliato ed è una buona pratica. Tuttavia, se poi il nostro corpo sta bene, in fin dei conti quello che viene descritto sono dei sintomi d'angoscia, perché questo senso di oppressione è un sintomo propriamente d'angoscia, per cui bisognerebbe pensare come mai c'è questa angoscia nell'addormentamento e magari far precedere al momento dell'addormentamento qualcosa di davvero piacevole per il soggetto, che dia come il là a continuare questa attività piacevole anche nel sonno con il sogno, perché di fatto è un piacere. I nostri ascoltatori hanno risposto al nostro invito di descriverci, raccontarci i loro sogni nel cassetto, 349-238-6666. Vorrei diventare magra, ma ormai so che non ne sono capace, ci scrive Angela. Perché dottor Ballerini mi fa come per dire anch'io? Angela, la prima questione è: perché vuole diventare magra? No? Allora, noi non ci conosciamo, non sappiamo da che peso parte, non sappiamo certo da che peso vorrebbe arrivare, per cui così parliamo un pochettino alla cieca. Tuttavia la questione è il vorrei essere magra, che poi può essere il vorrei essere bionda, il vorrei essere alto, il vorrei essere grasso, il vorrei essere riccio, piuttosto che il vorrei essere sportivo, il vorrei essere chissà cosa. Quello che mi preme trasmettere come messaggio è possiamo anche piacerci e volerci bene così come siamo. Per cui quando abbiamo come sogno, che poi diventa, magari non è questo caso, ma in alcuni casi diventa quasi un'ossessione nel voler essere diversi o nell'apparire in modo diverso, magari occorre ripensare a sé e fare un lavoro su di sé dicendo: ma in fin dei conti, no, posso essere felice anche come sogno. Ma lei ci invita quindi a rinunciare a questo sogno nel cassetto. Quindi ci sono sogni nel cassetto che vanno realizzati, o almeno si deve cercare di tirare fuori, altri in cui si dice: beh, no, in fondo non ne vale la pena perché devo lavorare di più su di me, quasi fosse tra virgolette una colpa a provarli, perché sono indice di una scarsa accettazione di sé? Non è propriamente un invito ad abbandonare i sogni nel cassetto, anzi io ho massima stima dei sogni nel cassetto e tendo anzi i miei cassetti li apro forse fin troppo spesso. Tuttavia l'invito è a riflettere e a considerare che cosa li ha generati, qual è l'impulso che ci spinge nel desiderare qualcosa che magari non riusciamo a realizzare. Mario ci scrive: io ho un sogno nel cassetto, ritrovare mio padre, non lo realizzo per non far soffrire le persone che mi vogliono bene. Questo è un sogno nel cassetto importante, direi anche in un certo senso legittimo, ma allo stesso tempo faticoso. Mario si trova un po' intrappolato nell'andare a cercare suo padre, ma anche paura di far soffrire le persone che forse hanno sostituito il padre tutti questi anni. Ed ora è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura. Ieri abbiamo parlato di influenza, sono sopravvissuta nonostante il professor Pregliasco sia arrivato qua in studio, veramente non aveva l'influenza, dice lui da influenzologo, ma era, come si dice a Milano, conciato. E allora oggi abbiamo pensato di darvi un libro che potrebbe in qualche modo aiutarvi, grazie all'iniziativa di Internet Bookshop potete ricevere a casa Influenza e malattia da raffreddamento, è un libro con tanti consigli. Per partecipare a questa iniziativa naturalmente dovete mandare un'email a esserebenessere@radio24.it, numero il vostro recapito, il numero di telefono, naturalmente il titolo del libro con i dovuti scongiuri, invitiamo a casa l'influenza con il libro per tenere l'influenza lontana, naturalmente il libro arriva a casa del primo ascoltatore che raggiunge il nostro indirizzo di posta. In collaborazione con IBS.it. La notte è silenziosa e nel suo silenzio si nascondono i sogni. Khalil Gibran. Dottor Ballerini, ma sente che selezione di frasi tutte dedicate al sogno, le piace? Sono molto belle ed è vero che nel silenzio della notte si nascondono i sogni, proprio così. Andiamo a Piacenza. Andiamo a Piacenza. C'è Angelo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Angelo sogna ad occhi aperti o ad occhi chiusi o tiene i sogni nel cassetto? Ma io, da quello che ricordo, alla mattina non sogno praticamente mai. Cioè, penso di sognare, nel senso che rarissimamente in vita mia, forse perché mi sono svegliato male durante la notte, mi sono accorto di sognare. Però non ricordo assolutamente il contenuto, nella stragrandissima maggioranza dei casi, e quindi penso di sognare molto poco, forse, o di ricordare molto poco. Se c'è una ragione, vedo che sei corretto, Angelo. Adesso il dottor Ballerini le magari può dare un'indicazione, anche perché così rispondiamo parlando con Angelo anche ai tanti ascoltatori che mi dicono: se dite che sognare, ricordare il sogno fa bene, come è possibile, come si possono aiutare le persone che di solito il sogno non ricordano a invece ricordarlo, almeno qualche dettaglio, a di nuovo imparare a ricordare quello che il nostro, no, si attiva durante la notte, i desideri, il lavoro che il nostro cervello fa durante la notte, che esprime proprio i desideri che abbiamo. Dottor Ballerini, una risposta per il nostro ascoltatore e anche un trucco per chi non si ricorda i sogni. Angelo si è giustamente corretto quando è passato dal dire non sogno di notte a non ricordo, perché di fatto è così, sognare sogniamo tutti e sempre, anche perché, come ci ha detto il professor Caltagirone prima, ne abbiamo la traccia elettrica del sogno, per cui sappiamo che nel cervello accade qualcosa, lo vediamo anche, lo possiamo registrare, e questo coincide col lavoro del sogno, ma non ce lo ricordiamo. Ora, accade spesso anche che ci siano dei soggetti che ad esempio mi dicono: ne ricordo solo un frammento, ne ricordo solo un pezzettino, quando noi abbiamo l'impressione come di aver visto un film intero e di ricordarci solamente una scena. Ecco, per interpretare un sogno e per il valore che il sogno ha, basta il pezzettino che ci ricordiamo, per cui non lasciamo cadere questa sensazione di incompletezza, basta quel pezzettino lì se vogliamo lavorarci sopra. Ma ad Angelo io, senza voler fare il preveggente, credo di poter dire che probabilmente domattina, forse dopo tanto tempo, si ricorderà un sogno. È un regalo di Natale? È un regalo di Natale, è un regalo della trasmissione, secondo me, nel senso che, come abbiamo visto già in apertura con il professor Caltagirone, ci vuole una certa attitudine, quasi una certa volontà, anche se non è uno sforzo di volontà. Per cui l'averne parlato oggi, il fatto che un soggetto si sia fermato a pensare, a dire io non sogno, forse invece non è vero che non sogno ma non ricordo, di fatto farà sì che questa attenzione faciliterà il suo ricordo. Magari ci sognano, entriamo nei sogni di qualche ascoltatore. Speriamo di entrarci bene. Vabbè, l'importante è entrarci. 824 0024. Patrizia, mette anche 1959. Ho sognato un innamorato biondo e giovane. Ho pensato anche ad un angelo. Mi sono svegliata felice e lieta come una ragazzina. Un sogno magnifico, no? Magnifico, mi viene da dire piuttosto che speriamo che tu vada ad incontrarlo, in realtà dovresti averlo già incontrato, per cui prova a pensare chi hai sognato. Chi è quell'innamorato biondo e giovane, magari non è più biondo, non è anche più giovane, ma... No? C'è stato. C'è stato. Invece una mamma ci racconta che ha realizzato tutti i suoi sogni. Ho 36 anni, sono mamma e mi mancano 3 mesi e mi diplomerò, non avendo potuto farlo prima. Così avrò realizzato tutti i miei sogni. Quindi ci sono. Ma che bello, questo è proprio. Avrebbe potuto rimanere un sogno chiuso in un cassetto, avere un titolo di studio e così. E fare questo nuovo percorso, di fatto è stato realizzato proprio perché ha avuto la forza di non dire ma sono mamma, non ce la faccio, ha aperto questo cassetto e ha iniziato a lavorare. Ecco, proprio come c'è una piccola forza per tirare fuori il cassetto, dobbiamo mettere un po' di energia, un po' di fiducia in noi stessi per realizzare i nostri sogni. Francesca ci chiama da Milano, poi abbiamo Stefano da Bologna, Antonio ancora da Milano, tutti sognatori. Francesca, sì, buongiorno. Lei sogna, si ricorda i suoi sogni? Comunque io prima volevo dirle che è un tale piacere parlare con lei perché è veramente una persona eccezionale. Ma grazie. Non è una piaggeria, ma proprio io lo penso. Grazie, e un regalo. Gli ospiti sono sempre così molto competenti, veramente scelti bene. Grazie. Dunque la mia curiosità era quella dei sogni in lingua straniera. Cioè a me capita quando vado all'estero, sto un po' di tempo, oppure quando ho ospiti qui a Milano di insomma, persone di lingua inglese, dopo un po' di giorni io incomincio a sognare in inglese. E questo capita sempre, non immediatamente, ma devo passare quei 3-4 giorni. Sì. E allora mi domandavo, insomma, questi mattoni di cui è fatto il sogno conservano però una grande attinenza con la realtà, perché altrimenti non riesco a capire perché succeda questa stranissima cosa che uno si accorge che nel sogno sta parlando in inglese oppure proprio formula dei pensieri. Sì. A me capita con l'inglese, poi non so, ad altri capiterà anche con altre lingue. E volevo poi un'altra cosa, era un piccolo dono di Natale, che ho fatto un sogno molto ridicolo un po' di notti fa in cui avevo detto a una mia amica che il cibo che preferivo era il formaggio. Sì. E l'attore che preferivo era George Clooney. Sì. Dopodiché di notte mi sono sognata che George Clooney con una palandrana bianca vendeva formaggio. Magnifico. Basta, mi piace. Senta, provo anch'io a raccontare magari a Luigi Ballerini. Senta, ci piace George Clooney, magari lo sogniamo tutti stanotte, sarebbe un bel sogno. Francesca, senta, lei l'inglese però lo sa molto bene. Sì, questo sicuramente. L'ho praticato tanto e comunque insomma sono in grado certo, di parlarlo, però comunque resta questo fatto misterioso. E quindi sarebbe stata abbastanza agevolata anche con George Clooney, avrebbe certo potuto dire la sua. Ma comunque come no? Ecco, vede che è capitato bene. Però vedeva formaggio, insomma, però mi piaceva lo stesso. Dottor Ballerini. Francesca, non lo dica a George perché già fa la pubblicità al caffè e potrebbe fare anche la pubblicità al formaggio a questo punto, e sarebbe bravo a fare anche quella del formaggio, devo dire. C'è al fisico. Invece mi dà davvero lo spunto estremamente interessante, perché ha parlato dei mattoni. I mattoni con cui noi costruiamo il sogno, Freud l'ha detto chiaramente, sono materiale di scarto, che vuol dire materiale cui non abbiamo prestato attenzione, raccolto nelle 24, massimo 36 ore precedenti il sogno. Per cui ha proprio ragione Francesca, il sogno attinge dalla realtà ed attinge da una realtà immediata. E sul fatto della lingua, tanto più abbiamo dimestichezza con una lingua, tanto più la usiamo, tanto più iniziamo a sognare con quella lingua, tanto che è quasi un indice di davvero dimestichezza e facilità con il linguaggio il fatto che uno dica stanotte ho sognato in inglese, vuol dire che lo so proprio bene. Andiamo a Bologna, ci aspetta Stefano. Buongiorno Stefano, siamo quasi in chiusura di trasmissione, le chiedo di essere rapido. Rapidissimo, intanto buongiorno a tutti. Auguri. Buongiorno al dottore. Auguri. Io credo di avere una dimensione onirica davvero importante, nel senso importante per chi la studia. Io quasi ogni notte parlo, urlo, mettendo delle grida veramente forti, svegliando le persone che mi sono vicine, che mi dormono anche in stanze a fianco, oppure mi sveglio e tutti i sogni che ricordo sono sogni molto agitati, Stefano, molto movimentati, molto movimentati. Volevo chiedere al dottore riusciva a darmi una spiegazione. Grazie. Dottor Ballerini, insomma Stefano è uno un po' agitato, abbiamo mi sto impaperando, pochi secondi prima della chiusura. Di solito l'agitazione del sonno non è responsabilità del sogno, ci sono altri fattori che agitano il sonno che vanno studiati, però è importante capirlo e per sé e anche per chi ci dorme vicino. Questo è fondamentale, perché quando si parla durante il sogno, durante il sonno, si dicono poi delle cose che possono darci qualche indizio a chi le ascolta, perché dice ho sentito parlare durante il sonno e... Di solito si farfuglia un pochettino, per cui è difficile dire proprio delle frasi sensate, compiute, però certamente possono scappare delle parole come delle immagini che noi consciamente non vogliamo ricordare ma che vengono fuori in questo momento. Allora, 2 secondi, perché tutti noi stanotte possiamo fare un sogno e ricordarlo domani mattina, il sogno lo facciamo, ma ricordarlo domani mattina abbiamo 2 secondi. Come fare? Una magia. Come fare? Il provare a pensare oggi e mi piacerebbe ricordare un sogno domattina. E allora auguri a voi che ci avete ascoltato, buoni sogni, cercate di ricordarveli e soprattutto andate sul nostro forum. Il dottor Ballerini è sempre lì a disposizione per fare moderatore. E quindi vi invito ad andare sul forum per raccontare i vostri sogni. Sognate ad occhi aperti, ad occhi chiusi e tirate il cassetto per far uscire quelli che avete nascosto dentro. Auguri a tutti, un abbraccio da Nicoletta Carbone, ci saluta anche il dottor Ballerini. Auguri a tutti.